La scheda che avete, che avete mandato spiega molto bene, io non so cos'altro potrei aggiungere, eccetto dire che fondamentalmente noi siamo un po' un ibrido, per molti versi ci hanno descritto come degli incubatori di imprese, ma ci hanno descritto anche come degli spazi di aggregazione, degli spazi per fare eventi, per fare riunioni. Il punto importante è che noi creiamo uno spazio fisico dopo aver creato una comunità sulle città in cui noi partiamo. E questa partenza è molto dal basso, cioè non è un franchise, una multinazionale che arriva e dice adesso apro gli uffici qua. No, sono proprio aggregati spontanei che sentono di questo progetto, che ritengono che risponda a un problema reale sul territorio. E quindi si aggregano, si mettono insieme e cominciano a parlare, a incontrarsi, persone che vengono anche da dei percorsi di vita professionali molto diversi, si va dai gruppi di acquisto solidale a imprenditori che fanno eolico e energie rinnovabili. Insieme vogliono condividere un percorso, quello di cambiare un po' la maniera in cui noi facciamo economia. Quali sono i casi più di successo, i casi che possono spiegare meglio questo lavorare assieme? A Londra, per esempio, qual è il caso un po' che ha fatto scuola? Ma un caso che citiamo spesso è quello di Onzo, che è un'impresa che è partita da un incontro fortuito in cucina nell'hub di Islington, che è il primo che è nato Proprio nella cucina proprio dell'hub? mentre si Sì, facevano infatti, il cioè, tè. cucina è cucina, cioè cucina non è un modo vostro di dire kitchen, di Hell Kitchen, cioè è una No, è cucina una cucina, ci sono i da fornelli. mangiare, ecco. Cioè questo è il tavolo di lavoro, insomma. Sì, è un punto fondamentale in Italia assolutamente far incontrare le persone, le metti di fronte Tu a un dici perché piatto in Italia di si pasta. mangia meglio, mentre in Inghilterra è già più tosta, è la cosa, no? In Inghilterra grandi tazze di tè.